Voglio che vi rendiate conto di tutti i suoni che provengono dall'esterno della stanza. Life isn't about sex, life is about children, and passion, yeah, and spirit. Yeah, it's life's about passion. It's not about fucking and balls and pussy. It's about love. It's about people. It's about connection. It's all about connections. It's not about cock and ass and tits, mm-hmm, and butthole pleasures. It's not about butthole pleasures at all. It's not about this rusty trombone and the dirty Sanchez. Please stop. And the Cincinnati bow tie. Moosh. And the pussy juice cocktail. And the shit stained balls. Moosh, just please stop. Swing like a chariot at the trumpet call when we're all unsaved. Swing like a wrecking ball, like the heart of God. What a mystery, filled with the wedding feast for the snakes and beasts with the angel teeth. Swing, come and carry us, come and marry us to the blushing circus king, and dance like elephants as he comes to us through a fiery golden ring with a violin and a song to sing as he brings for us our wings. Now he's one of us, plays the tambourine, breaks the bread for us and sings. Will you wait for us? Will you stay for us? Will you grace us every? You're a wrecking ball with the heart of gold. We will wait for it to swing like a chariot, swing it low for us, come and carry us away. So we will become a happy ending. So we Me la sono voluta ascoltare tutta, fino all'ultima nota, come di tanto in tanto capita all'interno di Eclettica, questa canzone. Avete sentito anche dalla sigla iniziale che si trattava di Profumo di Eclettica, ovvero il recupero dalle vecchie playlist di Eclettica di brani che in quelle playlist erano comparsi veramente spesso. Opera, diciamo, di recupero nostalgico per chi quelle trasmissioni già ascoltava e opera di conoscenza di chi Eclettica l'ha conosciuta da poco, in molti, per esempio grazie al podcasting, e si domandano magari come era Eclettica qualche anno fa. Purtroppo questa band ha inciso questo disco nel 1998, formata prevalentemente da ex Senseless Things, e poi è sparita, così, nel nulla. Poi qualche componente si è ritrovato in altre band, come negli Streets o nei Gorillaz, però i De La Cota, purtroppo, hanno finito la loro storia con l'album d'esordio, dal quale ci siamo ascoltati The Rock. Eclettica, che si è invece aperta con un gruppo che qualche settimana fa era stato anche oggetto di pillola, i Page Friends, dall'album Hello Dear Wind, dalla Suicide Squeeze, questo è il nome dell'etichetta, e Chariot invece era il titolo del brano. Vi voglio ricordare qualche data di concerto prima di lasciarvi nelle mani di Miho Hattori, ex Cibo Matto. Qualche data di concerto a cui potete andare ad assistere gratuitamente grazie ad Eclettica. Venerdì 27, Cesare Basile assieme ai Wheeler Grand Conspiracy allo Zero Music Club, e sempre nello stesso luogo, Okkervil River, il 3 di novembre. Me. era cominciata con la paura. Eravamo andati a Quillebeuf, come facevamo spesso quell'estate. Eravamo arrivati alla solita ora nel tardo pomeriggio. Come sempre avevamo indugiato lungo il parapetto bianco che fiancheggia la banchina oltre la chiesa, l'ingresso del porto, fino alla sua foce, il sentiero abbandonato che probabilmente porta alla foresta di Brotonne. Uno sguardo all'altra riva, al porto del petrolio, e in lontananza alle alte scogliere di Le Havre, al cielo. Poi un altro sguardo al traghetto rosso che incrocia, alla gente che passa, all'acqua del fiume, e sempre quel parapetto che fa da sbarramento, fragile e bianco. Questo era l'incipit di Emily L. di Marguerite Duras. Eternal Flame, lei si chiama Joan as Police Woman, chiaramente non è registrata l'anagrafe, in questo modo Joan rimane, però il cognome effettivo è Wasser, e questo è il nome dell'artista in questione che ci siamo appena ascoltati con Eternal Flame, The Real Life, suo album uscito per Play It Again Sam. Ne parlo anche perché è stata aggiunta proprio all'ultimissimo momento una data Nella settimana in corso, venerdì 27, alla Casa 139 di Milano, era preannunciata una tournée europea e sarebbe dovuta passare dall'Italia fra novembre e dicembre, e invece c'è questa data all'improvviso e mi trovo a dare una mano a qualche amico a fare in modo che la serata comunque possa andare in porto, nonostante appunto il breve preavviso. Avete sentito la qualità della musica di Jonas, Policewoman, Eternal Flame, in eclettica sulle frequenze di Rock FM, che poi potrebbero essere anche non frequenze, visti i tanti modi che c'è per poter, che ci sono per poter arrivare alla musica trasmessa all'interno di Eclettica. Vi ricordo anche l'esistenza della lista nera, che vi permette di avere direttamente nella vostra casella di posta le playlist di Eclettica. Iscriversi è facile, mandare un mail a giulio@radiorockfm.com e poi in lista nera, così si scambia qualche chiacchiera. Un altro luogo deputato alle chiacchiere, soprattutto una pagina bianca a vostra disposizione su internet, è www.myspace.com/eclettica. Ora ci ascoltiamo invece una band che proviene dagli Stati Uniti. Hanno esordito presso la Rainbow Quartz Records di New York City nel 2003, con l'album A New Devotion, e poi sono usciti ormai quasi un anno fa con un disco che solo oggi arriva alla nostra attenzione qua in Europa. Ce ne saremmo potuti accorgere anche prima, ma a volte i percorsi sono misteriosi che possono fare i dischi. È vero che ormai possiamo accedere a tutti i dischi in qualunque modo ci viene in mente, però non è così facile districarsi fra il tanto materiale che c'è a disposizione. Io ho appena ascoltato questi High Dials, è il nome della formazione, ho pensato ad una band che tanto l'anno scorso ho trasmesso all'interno di Eclettica, ovvero sia i Mazarin. Ve li ricordate? Vediamo se avete anche voi lo stesso parere. War of the Awakening Phantoms, questo l'album degli High Dials. Invece il brano che ci ascoltiamo ha per titolo Our Time is Coming Soon. dialettica. Fine della seconda parte.